614. Offelle di marmellata. La parola offella, in questo significato, è del dialetto romagnolo e, se non mi sbaglio, anche del lombardo, e dovrebbe derivare dall'antichissima offa, focaccia, schiacciata, composta di farro e anche di varie altre cose. Dar l'offa al Cerbero è una frase che ha il merito dell'opportunità, parlandosi di coloro, e non son pochi oggigiorno, che danno la caccia a qualche carica onde aver modo di riceverla e mangiare sul tesoro pubblico a quattro ganasce. Ma torniamo alle offelle, che sarà meglio. Mele rose, grammi 500. Zucchero in polvere, grammi 125. Candito, grammi 30. Cannella in polvere, 2 cucchiaini. Tagliate le mele in 4 spicchi, sbucciateli e levate loro la loggia del torsolo. Tagliate questi spicchi a fette più sottili che potete e ponetele al fuoco in una casseruola con 2 bicchieri d'acqua, spezzettandole col mestolo. Queste mele sono di pasta dura e per cuocerle hanno bisogno d'acqua, anzi, se bollendo rimanessero troppo asciutte, aggiungetene dell'altra. Aspettate che siano spappolate per gettarvi lo zucchero e poi assaggiate se il dolce è giusto, perché le frutta in genere, a secondo della maturità, possono essere più o meno acide. Per ultimo aggiungete il candito a piccoli pezzettini e la cannella. Servitevi della pasta frolla numero 589 nel quantitativo della ricetta. Distendetela col mattarello alla grossezza di uno scudo e tagliatela con lo stampo rotondo e smerlato del diametro di 7 centimetri. Un disco sotto e un disco sopra, quest'ultimo tirato col mattarello rigato, e in mezzo la marmellata, umettando gli orli perché si attacchino. Dorate le offelle col rosso d'uovo e mandatele al forno, spolverizzandole dopo di zucchero a velo.